Spotify. Always ha ha ha ha ha. I know they told ya, told ya, told ya, told ya, told ya. Hands up, hands up to the sky. Home of the Most High. We don't need no cosign, cause we NNNNNYY. Being from New York, repping from New York. If you from New York, hands up high. Being from New York, repping from New York. Welcome to New York City, ballin'. Giants be the team, we fashionistas. Trendsetters, models to win Mr. 3000. Derek G, 13 inches of snow. 9/11, we unstoppable. We stood as one melting pot. Something very memorable. From the east to the west, uptown to downtown. Yeah, we make it happen in NY. New York, we from New York. New York, New York. If you from New York, say it. Ha, ha, ha, ha. I know they told ya, told ya, told ya, told ya, told ya. Hands up to the sky. Home of the Most High. We don't need no cosign, cause we NNNNNYY. Being from New York, repping from New York. If you from New York, hands up high. Being from New York, repping from New York. To the end, to the death of me. Home of the brave, so I wear my heart on my sleeve. Give me the voice, the drive, the key to the big city. Access to the gold mine. It was all a dream to perform at the Apollo. Presenta i bellissimi di Rete Cazzo. If the mic's too high, it can't be that bad. Per i bellissimi di Rete Cazzo, questa sera, Kill Bill. È una fresca mattinata nella città di Lamezia Terme. Una misteriosa donna bionda nominata Maria Spaccadindi, che si pensava fosse morta dopo aver subito una pallottola, in testa attacca una bella donna. Ah, watch out! Ma che ne vuole qua? Piglia che esso! E me la ca! E piglia ca! Ma guarda! Ricca! Uai, figlia mia, perché te la voglio con mia? Mica significa danzare! Ah no! E chi lascia il poggiello rossa, chi è? Sì, come no! Guarda, diciamo chi è! Diciamo a dove! E diciamo a dove! Ma che ne? Cosa buono chi? E bevati! Oh, no, no, no, no, no! Usa Kill Bill! Che tu hai detto scannacole lì! Usa perfettamente! Oh, mamma mia! Quando vedo quando Cosenza andava in un campionato per Sanzogno, 1998! E peglie per culo mia! Ma ti porto vita! Scusa! Prima di morire te la posso dire una cosa? No. Ti stai vendendo la poco troppo a male? Te si sbaglia che se no finisce il primo tempo! Dove sta stato da... Eh? E per ora! No! La morte di Chebarra fu soltanto l'inizio di numerose vendette che è la bionda Spaccadindi ottenne, e si vendicò anche di Guglielmo Pinzetta, Mariella Basilicova, Giovanneggia in Ascadritta, Miliuzza in Bruciagegna, Giovanneggia Sanchez, Gennarini in Pisciavariato, di Renuzzi in Mutanna Sgummata e di Genoveffa. Scusa, però amo finisci con su revuoto. Ma io mi stai mentecando, iata! Prima di arrivare a Bill, da razzisca alla coniglia, raggiungere il suo nascondiglio maldito e la resa dei conti, l'atto finale, qualunque sia l'esito. Chi ne uscirà vivo? la Malvito, Bullo il Maria, si accettano le scommesse. E per questo ci colleghiamo con la postazione di William Hill per vedere chi vincerà e chi è stato favorito. Buonasera! Benvenuti alle votazioni sul match di oggi, del quale vengono il favorito, perché non io, come a me, al ciclo mestruale che potrebbe compromettere una performance. Quindi vi consiglio di puntare sull'under, di dire a Crescitello di non provarci con... Oh, ma non volete fare esce su cazzese, ma che ne importa! Ah, io era Madonza! Ah, oh, dove eravamo rimasti? Allora, il combattimento finale... Ecco, grazie! Eiko, come ti chiami? Oh, il coach vede già suo, no proprio. Comunque, signor Cicero, e signor Billy, per l'amici c'è qui. Cazzo! Chi me vola? Pensa che lo cattedò l'altro poco! E chiamato la Noranze Furebre fra poco! A proposito, per il tuo ultimo viaggio, per te i tuoi cari Noranze Furebre, Palumino! Palumino, tu che in una bala ti sembra stare in un pulmanino! Oh, ma vedi mi finisce su cazzo di venga, ma aspettano per gli sfoga, capito? Mi dispiace con me, ma mo te ammazzo! Che bella domanda, è una madonna. Non so come ricordo, vabbè, lasciamo stare. Prima che ci penso, ti chiamo papà così marocco. Oh, nel frattempo le faccio due scarole, ma... Mentre Bill si avviava a cogliere scarole lungo il terreno, improvvisamente un biondo con forte accento californiano, a bordo di un trattore Lamborghini, frisiava lungo il terreno. Che bello giocatore! Così era circa! Corto! È messo da uno! Che mi consegue su quanto gli esce? Ma ti la mano in quella scopa! È messo da uno! Ma mi devo cadere! Che ci dice tu? Che cagate i film, è la madonna! Ehi, ma che mi consegue ammazzare! Che merda di film! I bellissimi di Vento Cazzo hanno presentato Kiri. Me fumo della skunk, me sfondo più di un tank. Se mi fai la giuntina, te ballo anche la samba. Più fora di un black block, ne voglio uno stock. La gente che mi parla dice stop. Ma intanto sto in vetrina con la mia sigarettina. Se è meglio che stare in giostrina. Amsterdam è meglio Cartalanna. Se ti piace in giostrina, ma ti piace a fumare. Cartalanna è meglio Amsterdam. Non mi piace in giostrina, ma mi piace fumare. A Cartalanna ci vado poco, Amsterdam fare fuoco. Per la mia fame chimica sono diventato un poco. Zocco stocchi con la skunk, mi ha fatto scalco mat. Io me ne vado ad Amsterdam. Ti dicono qua male, provoca allucinazioni. Non sei mai morto di suoni. Voglio quella prostata, quella con l'etichetta, quella pure sana che mi spalta. Cosa che ti vuoi da me? Se voglio stare sentati tutto il dì. Se cato e metto in un coffee shop. Le so perché l'erba la medaglia elettroshock. Vedo gente e si perde la mente. In giro con pastiglie in discoteca in passa niente. Voto mi sapere in dove che starò. Se sta fai a buttare in del bel coffee shop. Amsterdam è meglio Cartalanna. Se ti piace ne giostrina ma ti piace a fumare. Cartalanna è meglio Amsterdam. Non mi piace giostrina ma mi piace fumare. L'unico verra che fa male. Tutti i giga ci ha bruato. Tutti i miei errori che scienziato. Da poffa una capa di scena che sfrontata. Coffee shop, Marte shop e sport. Coffee shop, Marte shop e sport. Smart shop, coffee shop e sport. Marte shop, come sport, come sport. Amsterdam ci vado per la mia cultura. Mi ha detto che chi va tornando a Marara. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ah, ma il treno arriva tra 20 minuti. Scusate, non lo sapevo. Il treno regionale di Trenitalia, numero 1, 2, 4, 56, 3, 23, 8, 25, 71, 71, 45, 6, 7, Tombola, proveniente da Ancona e diretto a Ancona, è in arrivo al binario Zagregaber. Ferma a Panulna, Pasniata, Teuleta, Matrota, Ponaulna, Poterda, Fuluna, Favriate, Panulna. Neuluona. Trenitalia informa gli scortesi passeggeri che viaggiare senza biglietto o con biglietto non obliterato porta ad una sanzione pecuniaria che parte da un minimo di 50 euro. Sti cazzi. Si informa la gentile clientela che la mignotta del binario 2 ha l'influenza. Si prega di recarsi altrove. Il treno regionale di Trenitalia, numero 15, proveniente da Castel San Pietro e diretto a Milano Trequartista. Il mister non lo tiene più centrale, è in arrivo al binario 6, anziché al binario 1 stronzo. Attenzione! Allontanarsi dalla linea galla. Attenzione! Allontanarsi dalla linea che sballa. Attenzione! Non sniffare la linea che sballa. Si informa la gentile clientela che, se ci dovesse essere un blackout prima di salire nel treno, non avere paura e salire ugualmente. Chi non vuole salire perché pauroso, verrà incitato con una frase ad effetto. Vada a bordo, cazzo. Trenitalia si scusa con i passeggeri per i danni commessi dal nano impazzito che è stato liberato all'interno del treno. Per evitare altri disagi come questo, avvertiamo anche voi. Se per caso trovate una lampada con un genio all'interno, che vi concede un desiderio da realizzare, riferiteglielo a voce alta, perché il genio è un po' vecchio. Questo in modo da evitare disagi come quello del nano. Secondo voi il capotreno aveva proprio bisogno di un pazzo di 30 cm? Il treno regionale di Trenitalia, numero 1936,27, delle ore 12:45, proveniente da Pesaro e diretto a Sessaurunca, sta per decollare. Controllate di avere la spalliera del sedile in posizione eretta, che il tavolino innanzi a voi sia chiuso e che le cinture di sicurezza siano bloccate. Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 14:01, proveniente da Ancona e diretto a Piacenza, è in arrivo al binario 3. Ferma in tutte le fermate, eccetto Falconara Marittima, Senigallia, Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini, Savignano, Cesena, Forlì, Faenza, Castel Bolognese, Imola, Castel San Pietro, Bologna Centrale, Castelfranco d'Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola. Ergo, questo treno va a fanculo. Attenzione! Allontanarsi dalla linea di febbre. Comunicazione interna di Trenitalia. Perché avete scelto un treno per fare 400 km di strada? Come ben sapete, il treno ha anch'esso le ruote. La ruota è un'invenzione di circa 10.000 anni fa. Perché vi ostinate ancora ad usare una tecnologia così antica, visto che tutti quanti siete in possesso di uno smartphone che sa fare il bucato? Andate via, e non rompeteci più i maroni. Dinglon. Il treno Feccia Grossa, pardon, Freccia Rossa, di Trenitalia, delle ore, proveniente a, e diretto a, è in arrivo al binario. Ferma a, e anche a. Attenzione! Se il cielo è nuvoloso, e voi dovete per sconosciuti motivi contare fino a 10, evitate di dire il numero 8, perché sennò piove a dirotto. Nell'intimo dell'ultimo che salirà nel treno, c'è Cilli. Comunicazione interna, il treno è in avaria dei Tori di Pamplona. Mantenere la calma, e non arrendetevi alle mille difficoltà che molto probabilmente vi faranno vivere gli ultimi minuti di vita. Ricordate sempre che, uomo avvisato, bel tempo si spera. Chi di spada ferisce, non morde. Una mela al giorno, va lontano. Grazie per aver scelto Trenitalia, anche perché se non eravamo noi la vostra scelta, andavate a piedi, visto che in Italia ci siamo solo noi.